giornale radio del Friuli Venezia Giulia. L'edilizia e le distorsioni del superbonus dai costruttori, le preoccupazioni per le imprese frammentate in partite IVA che sfuggono ai controlli. Pordenone, i numeri del mobbing, denuncia in crescita allo sportello gestito dalla CISL. 220 produttori di extravergine d'oliva, la prossima edizione di Olio Capitale in programma a Trieste dall'8 al 10 marzo, questa mattina la presentazione. Sebastião Salgado, il pianeta da salvare, il grande fotografo brasiliano a Trieste per la mostra Amazonia che si apre domani al Salone degli Incanti. La tisana e la biblioteca dei desideri, questa sera un incontro per le proposte della futura Casa dei Libri, ma i ragazzi hanno già detto la loro. Il piccolo Evan è la sigla di Super Quark, parla l'insegnante del pianista in erba che sarà tra i protagonisti di La TV fa 70 stasera su Rai 1. Le 12:31, ancora buona giornata da Giampaolo Mauro e Maria Spezia. La lente sul settore dell'edilizia, dove il super bonus ha creato fenomeni definiti distorsivi. La nostra regione pare immune dalle cosiddette imprese nate morte, ma per l'associazione costruttori c'è un problema legato al frazionamento delle imprese in piccole partite IVA che sfuggono ai controlli. Friuli Venezia Giulia praticamente esente dal fenomeno delle imprese edili apri e chiudi del superbonus, 11.000 in tutta Italia. Ma secondo ANCE, l'Associazione Nazionale Costruttori Edili, l'epoca del 110% ha portato in dote alcune distorsioni di non poco conto. 15.000 le aziende nel settore costruzioni dai dati delle Camere di Commercio, 2.253 quelle iscritte nelle casse edili. Una differenza legata al sistema delle partite IVA singole. C'è infatti l'obbligo di iscrizione in cassa edile solo per le imprese con dipendenti o per titolari di ditte individuali che eseguono lavori pubblici sopra i 70.000 euro. Marco Bertuzzo, presidente di ANCE FVG. Abbiamo riscontrato che un aumento di questi numeri è legato anche ai vantaggi che fiscalmente vengono dati al cosiddetto sistema delle partite IVA forfettarie, che ha visto in molti casi piccole aziende smembrarsi per costituirsi in gruppi di singole partite IVA. Ecco, questo è un qualcosa che certamente danneggia il nostro settore, o meglio, mette in concorrenza sleale questi sistemi agglomerati di partite IVA rispetto a un sistema, quello dei nostri iscritti nelle casse edili, che è anche tutto un sistema di garanzia e di tutela sul fronte della sicurezza e dei servizi dati ai propri dipendenti, che in un altro sistema ci sfugge, diciamo. Nell'epoca super bonus, in regione, indica la Guardia di Finanza, aperte 975 partite IVA. Di queste ne sono state chiuse 84. In provincia di Udine, dove ha sede la maggior parte delle ditte, solo un caso penalmente rilevante riscontrato nel 2023. Francesca Auriemma, tenente colonnello e comandante del nucleo di polizia economico-finanziaria di Udine. Una società della provincia di Udine che attestava lavori che effettivamente non erano stati realizzati o realizzati solo in parte. E di qui la maturazione di crediti per il bonus 110, ma che di fatto insomma erano crediti non veritieri. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Nidec Asi, ICOP e Step Impianti sono stati scelti dall'autorità del sistema portuale del Mare Adriatico Orientale per i progetti di elettrificazione dei moli 4, 5 e 6 del porto di Monfalcone. L'appalto pubblico del valore di oltre 6 milioni e mezzo di euro, finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, consentirà di ridurre in modo consistente le emissioni a Porto Rosega, abbattendo ossidi di zolfo e azoto, anidride carbonica e polveri sottili. Alle imbarcazioni attraccate sarà infatti fornita in banchina la potenza elettrica necessaria, consentendo lo spegnimento dei motori. Per Nidec, quello di Monfalcone rappresenta il nono progetto europeo di elettrificazione delle banchine, dopo quelli realizzati o in corso di realizzazione per il porto di Trieste, ai moli 5 e 7, Genova, Savona, Gioia Tauro, Sète in Francia e La Valletta a Malta. A Pordenone è stata illustrata l'attività del centro d'ascolto anti-mobbing. Ecco le cifre dello sportello gestito dalla CISL. 116 persone si sono rivolte al punto di ascolto anti-mobbing di Pordenone nel 2023, che è uno sportello che ha sede nel comune di Porcia, che collabora assieme al comune di Pordenone per questo progetto gestito dalla CISL di Pordenone. Sono numeri in aumento. Chiara Tomasella, CISL Pordenone. Sì, nel corso del 2023 abbiamo visto una crescita di utenza che si è rivolta allo sportello per ottenere un aiuto rispetto alle situazioni di disagio lavorativo che ci sono state segnalate. Abbiamo riscontrato in particolare nel corso di questa annualità un aumento dell'utenza maschile che si è visto soprattutto nella fascia matura di età, quindi parliamo dai 40 anni su e un picco anche oltre i 50 anni, in quanto risultano essere più impegnati nelle necessità di cura familiare e quindi oggetto delle tipiche vessazioni che di solito si rivolgono alle donne. Quindi quali sono i principali motivi per i quali si rivolgono a voi? Si rivolgono a noi perché vivono delle situazioni di disagio lavorativo più o meno vario, che possono andare da situazioni di problematiche lavorative con i colleghi, ma anche nei confronti del superiore o titolare, quindi violazioni di diritti, discriminazioni, organizzazione del lavoro problematica e via discorrendo. Porcia, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. La cronaca a Udine, due giovani sono stati arrestati in flagranza per un furto all'interno di un'abitazione del quartiere di San Domenico. Dopo la segnalazione di un vicino che aveva notato l'effrazione e chiesto l'intervento delle forze dell'ordine, sul posto sono intervenuti due volanti della polizia, un'unità del reparto prevenzione crimine e un equipaggio del nucleo radiomobile dei carabinieri. Allora arriva un terzo giovane che faceva da palo e fuggito facendo perdere le proprie tracce. I due complici che si trovavano ancora all'interno della casa e che stavano mettendo a soqquadro hanno tentato una rocambolesca fuga salendo sul tetto prima di arrendersi non senza un ultimo tentativo di sottrarsi alla cattura. Il giudice per l'inchiesta preliminare ha convalidato l'arresto ed ha disposto la custodia cautelare in carcere. A Gorizia si amplia la rete Wi-Fi messa a disposizione in modo gratuito dal comune. La nuova zona è quella del castello. Guglielmo, un vero amico di tanti cittadini goriziani, lo sarà ancora di più in vista di Go 2025. Cresce l'offerta di Wi-Fi pubblico gratuito nel capoluogo isontino. La copertura ora comprende anche il castello di Gorizia. Tecnologia al servizio della cultura, quindi. Il luogo simbolo della città, inoltre, era già stato collegato alla fibra ottica. Una copertura Wi-Fi realizzata grazie ad un finanziamento regionale. Con risorse proprie, invece, il comune ha provveduto all'ampliamento della rete Wi-Fi cittadina in altri due luoghi strategici, se parliamo di spettacoli ed eventi, il Teatro Verdi e la Sala Dora Bassi. Guglielmo è un servizio che in 12 anni, dalla sua inaugurazione, ha registrato il collegamento di oltre 40.000 dispositivi. Nell'ultimo anno sono state quasi 83.000 le connessioni, più di 24.000 le ore di navigazione e oltre 480 le nuove utenze. Basta l'autentica, la prima connessione, e poi è come utilizzare il Wi-Fi di casa propria. Un benefit per i cittadini di Gorizia, sottolineato dal sindaco Ziberna, che naturalmente guarda al suo utilizzo in vista di Go 2025, quando Gorizia e Nova Gorizia accoglieranno visitatori e turisti da tutto il mondo per vivere l'evento capitale della cultura. La novità, inoltre annunciata da Ziberna, sarà quella della copertura della fibra ottica nel centro cittadino e in periferia entro giugno. Gorizia, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. La situazione del tempo: abbiamo cielo da nuvoloso a coperto sul Friuli Venezia Giulia. Queste le temperature registrate alle ore 11. A Trieste 15 gradi e 5 decimi, a Gorizia 15, a Pordenone 13, a Udine 12 gradi, nell'area montana a Tolmezzo 6 e 5 decimi, a Tarvisio 6, a Sappada 2, a Forni di Sopra 3 gradi, sul Piancavallo 2,5 e ancora in quota abbiamo sul Lussari e sul Monte Zoncolan 2 gradi positivi. A Grado e a Lignano 12 e 5 decimi. Le previsioni ancora dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale: per le prossime ore le precipitazioni cesseranno su tutta la regione, anche se il cielo permarrà coperto. Per domani cielo in prevalenza nuvoloso, con temperature ben oltre la norma del periodo. Si prospetta una Pasqua da tutto esaurito nelle strutture ricettive della regione. La previsione è di Federalberghi, la cui presidente regionale Paola Schneider spiega: già confermato un bel numero di prenotazioni. La Pasqua quest'anno cade bassa e in quel periodo potrebbe essere ancora possibile sciare nei poli regionali. Non solo montagne e neve, comunque negli ultimi anni si è tornati infatti a viaggiare, lo fanno sia gli italiani sia gli stranieri. Il Friuli Venezia Giulia, con le città d'arte, i numerosi luoghi che offrono cultura, paesaggio ed enogastronomia di qualità, è tra le regioni preferite da austriaci, tedeschi, olandesi, inglesi, statunitensi. La Pasqua si festeggerà domenica 31 marzo, ma le scuole chiuderanno già giovedì 28 e riapriranno il 3 di aprile. E poi ci sarà un altro periodo favorevole agli arrivi, il 25 aprile, cade infatti di giovedì, e per qualcuno il lungo ponte festivo potrebbe arrivare fino al mercoledì successivo, 1 maggio. Questa mattina a Trieste è stata presentata alla Camera di Commercio della Venezia Giulia la 16ª edizione di Olio Capitale, manifestazione in calendario la prossima settimana. Quest'anno l'iniziativa sarà animata da oltre 200 espositori da diverse regioni d'Italia, oltre che da Grecia e Slovenia, e riceverà 19 acquirenti internazionali, tra cui da Canada, Indonesia e Nuova Zelanda. Ad Antonio Paoletti, presidente della Camera di Commercio della Venezia Giulia, abbiamo chiesto un quadro delle problematiche del settore. Riusciamo ad avere una buona produzione, ci sono i produttori italiani, quelli grossi, quelli industriali, che hanno delle produzioni di un certo tipo e fanno un prodotto di un certo tipo. Poi abbiamo questi piccoli e medi produttori che invece lavorano sulla qualità, lavorano sul packaging, lavorano su un altro tipo di mercato che non è quello delle grandi aziende industriali. E sicuramente la produzione è calata perché la malattia ci ha fatto veramente dei problemi enormi, in particolare in Puglia, non solo, però dall'altra parte il clima è diverso e abbiamo più produzione centro-nord, se vogliamo. Il nord è più riscaldato, il centro in particolare, di conseguenza le produzioni si stanno un po' spostando, si stanno un po' amalgamando, ecco, purtroppo dico io. Ci vediamo combattere contro una Grecia e una Spagna che mettono nei supermercati olio extravergine d'oliva a 2,50 euro, 4,50 euro, 6 euro, un litro. Allora un consumatore deve capire che per quel prezzo lì non può pretendere un'eccellenza, un prodotto importante che abbia tutte le qualità organolettiche precise. Se uno vuole prendere un olio, dovrebbe pagare minimo 15-17 euro una bottiglia, ma proprio minimo, per andare ancora più su, i mezzi litri o i 3,50. Per cui il problema nostro è che dobbiamo insegnare una cultura dell'uso dell'olio diverso in cucina, a casa, parlo, oltre che nei ristoranti, che lo stiamo già facendo. Ieri l'ambasciata d'Italia a Belgrado ha ospitato la prima tappa della promozione del Big Science Business Forum 2024 BSBF, che dal 1 al 4 ottobre porterà a Trieste rappresentanti di organizzazioni europee di ricerca scientifica per discutere le opportunità di collaborazione con il mondo dell'industria e di partenariati commerciali. Il settore mobilita a livello europeo circa 10 miliardi di euro l'anno ed è significativo soprattutto per le aziende che ambiscono a promuoversi a livello internazionale. Un'occasione di dialogo, confronto e integrazione tra paesi e tra settori rilevanti delle loro economie, capace di offrire tangibile testimonianza delle ricadute occupazionali e sociali dei processi di innovazione. L'assessore regionale al lavoro e istruzione Alessia Rosolen ha riassunto con queste parole la sua partecipazione all'ambasciata italiana di Belgrado al roadshow organizzato dall'iniziativa centroeuropea INCE per presentare il Big Science Business Forum, che si svolgerà a Trieste dall'1 al 4 ottobre. Quello nella capitale serba è stato il primo di una serie di 8 incontri finalizzati a illustrare ai portatori di interesse dell'Europa centro-orientale e balcanica le prospettive legate all'appuntamento dedicato all'alta tecnologia e all'innovazione, che si svolgerà nei magazzini 26, 27 e 28 del Porto Vecchio. L'apertura del forum verso questa importante parte d'Europa, ha detto Rosolen, è stata una delle nostre priorità quando abbiamo presentato la candidatura nazionale per ospitarlo. Le sinergie che germoglieranno da questo ciclo di incontri consentiranno infatti al mondo imprenditoriale e scientifico dell'Europa centro-orientale di poter beneficiare appieno delle opportunità di crescita economica e di sviluppo tecnologico offerte dal Big Science European Market. L'ambizione di Trieste è quella di superare le presenze dell'edizione precedente del forum, che si è svolta nel 2022 a Granada, in Spagna, e che registrò l'adesione di 1000 partecipanti e di 500 organizzazioni per un totale superiore ai 30 paesi rappresentati. Daniele Lettig, TGR Friuli Venezia Giulia. La pagina della cultura aprirà domani al pubblico la mostra Amazonia al Salone degli Incanti. Oltre 200 le fotografie in allestimento del grande fotografo brasiliano Sebastião Salgado, uno dei maestri del nostro tempo. C'era anche lui questa mattina a Trieste. La presentazione dell'evento è l'anteprima per la stampa. Oltre 200 fotografie esposte per un'immersione totale nella foresta amazzonica e un invito a riflettere sulla necessità di proteggerla. Il Salone degli Incanti di Trieste ospita dal 29 febbraio al 13 ottobre la mostra Amazzonia, frutto dei viaggi intrapresi in 7 anni dal fotografo brasiliano Sebastião Salgado per catturare la ricchezza della foresta amazzonica e la vita dei suoi popoli, stabilendosi per settimane nei loro villaggi. Per Salgado queste immagini testimoniano ciò che sopravvive prima di un'ulteriore progressiva scomparsa. Il mio desiderio con tutto il cuore, con tutta la mia energia e con tutta la passione che possiedo è che tra 50 anni questa mostra non assomiglia a una testimonianza di un mondo perduto. L'Amazzonia deve continuare a vivere e avere sempre nel suo cuore i suoi abitanti indigeni. Attirando l'attenzione su questa regione, Salgado vuole accendere i riflettori sulla necessità di proteggerla insieme ai suoi abitanti. La foresta è un ecosistema fragile che nelle aree protette dove vivono le comunità indigene non ha subito alcun danno. Tutta l'umanità ha la responsabilità di occuparsi di questa risorsa universale, polmone verde del mondo e dei suoi custodi. Due i temi attorno ai quali si sviluppa la mostra. Il primo è costituito dalle fotografie di ambientazione paesaggistica, dalle vedute aeree di foresta ai cosiddetti fiumi volanti, creati dall'acqua dispersa dagli alberi. Il secondo dalle popolazioni indigene, con le interviste video ai leader dei vari gruppi. Ad accompagnare la visita la traccia audio immersiva, realizzata da Jean-Michel Jarret, che riproduce i suoni della foresta pluviale. Trieste, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Un'altra esposizione, quella delle opere di Van Gogh al Museo Revoltella, sempre a Trieste, ci offre lo spunto per un approfondimento sui tesori del Museo Civico e la sua gestione. Sono già tantissime le presenze alla mostra su Van Gogh, inaugurata giovedì al Museo Revoltella di Trieste, museo che nel 2022 ha compiuto 150 anni. Susanna Gregorat, conservatore del Revoltella. Un museo che possiede un patrimonio straordinario, un patrimonio artistico meraviglioso, di circa 5.000 pezzi, tra dipinti, sculture, opere di grafica, diciamo, disegni, arredi, oggetti anche di grande pregio, oltre che anche una biblioteca storica molto ricca e molto pregiata, appartenente appunto al barone Revoltella. Proprio nel 22 abbiamo celebrato questi 150 anni favolosi della storia del nostro museo, inaugurando una mostra dedicata proprio alla scultura. Questa era la prima sala che rimarrà, quindi è stata un'occasione per ripensare anche al percorso permanente. Per far spazio alla mostra, 100 opere della collezione del museo sono state spostate. Di queste, 4 sono state prestate ad altri musei. Non vengono concesse dietro un pagamento, ma la valorizzazione di ciascuna opera prevede la pubblicazione nel catalogo della mostra ed anche eventualmente un intervento di restauro preventivo che permette all'opera di partire in estrema sicurezza. Ma le grandi mostre avvicinano il pubblico solo in parte alla collezione permanente del Revoltella. Massimo De Grassi, docente di storia dell'arte contemporanea dell'Università di Trieste. Naturalmente, se si convoglia a Trieste delle persone che di Trieste non sono, questo è un valore aggiunto. Tuttavia occorrerebbe immaginare anche degli spazi più adatti a gestire i grandi flussi, ma occorrerebbe, secondo me, ripensare la struttura dell'ex pescheria, che è una struttura incredibilmente interessante dal punto di vista architettonico. Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Tra gli appuntamenti culturali di oggi c'è il ritorno di Gioconda Belli a Pordenone, la scrittrice nicaragüense, protagonista dell'edizione 2019 della rassegna Dedica, e tra gli ospiti dell'edizione del trentennale stasera dialogherà al Capitol con Federica Manzon, scrittrice e direttrice editoriale della Casa Guanda. Appuntamento alle 20.45. La tisana sta immaginando la nuova biblioteca che sorgerà presso la cosiddetta Casa Samuele in Viale Stazione, di fronte alla direzione didattica. Oggi al centro polifunzionale è in programma un incontro nel quale i cittadini potranno esprimersi sulle caratteristiche che dovrà avere la futura casa dei libri. La biblioteca che vorrei è in realtà un percorso che ha già visto la partecipazione attiva di numerosi ragazzi delle scuole di tutti i gradi del comune di Latisana. Li ha incontrati Mara Fabbro di Damatraon Luz, che sentiamo in questa intervista. Si pensa che bambini e ragazzi, soprattutto i ragazzi e gli adolescenti, non siano grandi frequentatori di biblioteche, ma anche se non lo sono, la biblioteca dentro di loro ha lasciato un segno affettuoso e molto positivo. Sì, ci sono due grandi filoni, diciamo così, posso dire. Da una parte ci sono quelli che vorrebbero una biblioteca del futuro molto diversa, un luogo vivace, pieno di tecnologia, un luogo dove ci sono i libri, sì, ma si possono fare anche un mucchio di altre cose, si può ascoltare musica, si può dondolare sulle amache, si può giocare insieme ai videogiochi, per esempio, ma anche ai giochi da tavolo, insomma, i giochi poi a seconda dell'età dei bambini e dei ragazzi cambiano. Comunque un luogo molto molto socializzante. C'è chi invece è molto molto affezionato all'idea di biblioteca così com'è, un luogo tranquillo, un luogo di pace, un luogo dove il tempo si ferma, dove l'insieme dei tantissimi stimoli che ci sono fuori si placa e si può trovare un momento di grande connessione con se stessi. Questa sera sarà inaugurato anche il grande occhio colorato, che in realtà è costruito con dei foglietti post-it di carta che contengono le proposte dei ragazzi. Sì, abbiamo voluto costruire questo occhio sul futuro, abbiamo creato questa grande opera collettiva che è fatta di tantissimi post-it colorati, dove ovviamente non ci sono stati tutti i loro pensieri, però abbiamo cercato di fare in modo che tutti i pensieri fossero rappresentati. Eva Ciuc, TGR Friuli Venezia Giulia. Questa sera sul canale TV di Rai 1 andrà in onda La TV fa 70, che ripercorrerà la storia dei numerosi programmi che hanno fatto la storia della Rai, anche attraverso le sigle che tutti hanno imparato a riconoscere. Tra i diversi ospiti musicali ci sarà anche un giovanissimo pianista triestino, Evan Migliani, che a 7 anni vive a Basovizza con la famiglia. È stato notato a un concorso pianistico, il Città di Albenga, e contattato attraverso la sua insegnante di piano alla Glasbenamatica, istituzione musicale ultracentenaria della comunità slovena. Sentiamo Tamara Rasem Rocatelli, la sua docente. Tutto iniziato il 4 febbraio, quando mi hanno chiamato da Albenga, il direttore artistico del concorso, chiedendomi se può dare il nome di Evan a Roma. Non mi ha detto nient'altro e praticamente dopo 24 ore ho ricevuto la telefonata da Roma, Rai 1, che il mio allievo è stato scelto per suonare la sigla di Quark, omaggiando Piero Angela. E tutto questo, infatti, io poi le ho chiesto: ma quando andrà in onda? Lei deve presentarsi tra 10 giorni. E dovevamo preparare tutto in 10 giorni, calcolando, io non so se loro sapevano che il bambino avesse 7 anni, però insomma ce l'abbiamo fatta. Ecco, è stata dura, ma ce l'avete fatta. Come è andata poi la registrazione della trasmissione? Super, fantastico. Il bimbo comunque è eccezionale, sa dominare il palcoscenico. E lui è andato sul palco come una lezione normale, era proprio contento. Lui è un suo allievo presso la Glasbenamatica. Quando ha iniziato? Lui ha iniziato a 5 anni e comunque, ecco, la nonna è anche musicista, era la mia ex professoressa Xenia Brass, e anche la mamma studiava il pianoforte, quindi lui si trova in un ambiente musicale. Eric Dolcar, giornale Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia. È tutto per questa edizione, che è stata realizzata da Maria Spezia e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Caterina Cabrelli e Carlo Morello, ha collaborato in redazione Valentina Veneruso. 12:53, prossima edizione alle 15. Grazie per il vostro ascolto e buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.